Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Chiude la storica libreria Paravia di Torino, la seconda più antica d'Italia. Amazon ci ha distrutto, il commento dei gestori. Massimo Cortinovis qualche settimana fa aveva lanciato l'argomento, una discussione che ha preso piede su LinkedIn, sulla quale ci siamo ritrovati a discutere animatamente ma in maniera costruttiva, e da lì è nata la puntata che la settimana scorsa ha visto Davide Surace, Chief Digital Officer di Stereo, società di Feltrinelli per la distribuzione online e la vendita online dei libri, e Matteo Rico Öpli, Vice President esecutivo della Öpli Editori e Librerie, che abbiamo riportato questa settimana qui ai nostri microfoni di Radio Next perché vogliamo affrontare l'argomento dal punto di vista delle librerie. Partiamo questa settimana da Matteo. Perché stanno chiudendo le librerie? Ha ragione Paravia a dire chiudiamo perché è tutta colpa di Amazon? Allora, secondo me no, nel senso che guardando i dati, perché questo tipo di discussione ovviamente diventa una discussione più economica di canale, di spending reale, certo, del mercato verso un tipo di consumo, in questo caso quello del libro, vanno visti i dati. Io vedo, ho tre dati fondamentali, sono chiusura libreria Parigi, quindi una delle città dove si comprano da sempre più libri, 27% delle librerie chiuse in 15 anni. In Germania, il mercato numero uno assoluto in Europa, tra l'altro con la legge sugli sconti, quindi diciamo zero sconti, quindi tutti alla pari, e c'è anche lì Amazon, hanno comunque chiuso il 50% delle librerie in 20 anni. E dati invece proprio economici, professor Tantazzi, Nomisma e Istat, lo spending italiano, quindi di tutti noi consumatori nel mercato, gli ultimi 10 anni, meno 22%, un miliardo. Quindi il canale libro comunque un problema ce l'ha. Ok, e Davide, quindi è tutta colpa di Amazon? No, assolutamente. Allora, io non penso che il problema sia legato alle librerie o ad Amazon. Il problema è legato al fatto che il mondo è cambiato, tutto lì. Quindi non penso che ci sia differenza tra quello che sta vivendo oggi il retail in generale, quindi sì, non solo il mondo delle librerie, rispetto a quello che ha vissuto quando è entrata la grande distribuzione organizzata, le piccole locande, locandine, negozietti. Quindi è solamente una rivoluzione che i retailer dovranno affrontare. È qui che nascono allora ovviamente le domande: come si fa ad affrontare questa rivoluzione, Davide? Ma allora, secondo me c'è sicuramente un fatto di adeguamento ai cambiamenti del consumatore, alle richieste che ha il consumatore. Avevamo visto settimana scorsa il concetto di experience, di acquisto, cambia completamente. No, ma banalmente il minimo si deve fare, quindi l'evoluzione tecnologica si deve, secondo me, seguire, si deve fare. Anche all'interno dello store, e quindi poi si devono cercare dei lati differenzianti all'interno dello store per continuare a portare la gente all'interno delle librerie. Non tutte le librerie sono, come dire, fortunate e famose come quella di Lisbona, dove ci girano dentro Harry Potter, no? Quindi, e dove banalmente si possono anche permettere di chiedere 3 euro per entrare, c'è la fila fuori, ma quella è un'icona, è una cattedrale, se vogliamo. La libreria come deve cambiare allora per riuscire a fornire a superare o a rispondere alle esigenze del cliente che oggi ha bisogno ancora sempre di più di informazione ma compra sempre meno libri? Matteo. Allora, alla Öpli ovviamente la prima cosa, in verità lo facciamo da appunto, come dicevo la settimana scorsa, da 150 anni, è l'esperienza, quindi poter trovare tutto quello che cerchi, trovare i librai che ti consigliano. E 15 anni fa noi apriamo il nostro e-commerce online, che è la libreria online, non è un e-commerce, è la libreria online. E quindi io, libreria Öpli, che prima avevo Milano come bacino, 1 milione di utenti, diciamo, 15 anni fa, improvvisamente ne avevo 50 milioni, quindi tutti quelli che potevano accedere a internet. E come dico io tutti i giorni ormai ho 30 milioni di librerie nelle tasche degli italiani attraverso lo smartphone. Peraltro Öpli è anche un editore che vende in Feltrinelli. Assolutamente. Quindi, non c'è, come dire, c'è sì competizione anche sul mercato. E vende. E Feltrinelli vende ovviamente dentro, che è un editore a sua volta, vende dentro le librerie Öpli. Quindi perché Amazon allora è sempre la bestia nera, è sempre quello, come dire, che è visto come il il rappresentante di tutti i mali. Non stiamo, parto da te Matteo, non stiamo pensando, come dire, di scaricare un po' il barile o di nasconderci dietro un dito? Allora, come in tutti i mercati, quando arriva the big guy, come si dice in America, ovviamente dà fastidio un po' a tutti, quindi è più semplice prendersela con quello più grosso che si muove rispetto ovviamente agli altri. In più Amazon, che è nata ai primissimi anni 90, aveva un'esperienza, diciamo, di entrare nei mercati notevole, quindi non ci ha fatto molti sconti ed è entrata, diciamo, a gamba tesa, no? Probabilmente aveva imparato prima e quindi da noi è entrata già con tecniche di marketing un po' sconosciute in Italia. Ma soprattutto ha fottuto tutti grazie alla capacità logistica di poter distribuire tutto ovunque in tempi brevissimi. Assolutamente, no? Quello, assolutamente. Quindi, esatto. Quindi ovviamente dall'altra parte dico sempre, io che anch'io ho un online, un e-commerce, chi faceva la logistica all'ultimo miglio, quindi chi spedisce di fatto i pacchi da te verso il tuo cliente, sono diventati bravissimi proprio grazie al fatto che Amazon ha fatto molto pushing e quindi tutti quelli che fanno questo lavoro ne hanno guadagnato. Quindi bisogna sempre vedere le cose da due lati differenti. Cioè, noi stessi ovviamente abbiamo molto migliorato i servizi perché ovviamente c'è un concorrente molto forte. Infatti, questo è sicuramente vero. Oggi il cliente è sicuramente più coccolato da parte di tutti, perché Amazon ha costretto tutti a migliorare il servizio. Ha alzato un po' l'asticella. Ha alzato l'asticella, perfettamente, perché poi comunque la forza di Amazon è stare accanto al cliente in qualsiasi occasione. L'esperienza, secondo me, forse è vero che qualche volta ci si nasconde dietro un dito, perché comunque l'esperienza molte librerie la sanno fare. Pensate a tutto il mondo degli eventi e degli incontri con l'autore che possono avvenire solo nel mondo fisico, l'esperienza già viene fatta. E quindi rafforzare queste leve potrebbero tranquillamente disannientare un minimo. Perfetto, allora qualcuno però, qualche rappresentante del mondo delle librerie potrebbe dire: non sono abbastanza grosso da potermi permettere la tecnologia che Amazon ha. Oggi se io compro un libro su Amazon mi dice: ma non aspettare che arrivi, intanto incomincia a vederti, a leggerti le prime pagine gratuitamente perché te lo do su Kindle. E banalmente ti dice: intanto installati la mia applicazione, comprati magari il Kindle Fire, no? Per cercare di spingere il libro. Non abbiamo parlato la settimana scorsa né questa settimana degli audiolibri, magari ci faremo una puntata a sé stante, ma questa esperienza che non riesce a essere data dalla libreria non potrebbe essere agevolata degli editori che aiutano a questo punto le librerie a dare dei servizi che non sarebbero in grado di fare da soli, Davide? Alcune attività vengono già fatte. Ma sono sufficienti? Infatti il fatto è che non sono sufficienti, però ti assicuro che ci sono dei casi di successo. Noi ne abbiamo fatte alcuni, per esempio con Zero Calcare, sì? Delle attività dedicate, quindi dei one-off solamente dentro le librerie, copertine che si trovavano solo ed esclusivamente in librerie fisiche, quindi delle attività possono essere tranquillamente fatte, non sono abbastanza, quindi gli editori sicuramente potrebbero aumentare le attività insieme alle librerie. Matteo? Allora, per quanto riguarda appunto la possibilità di dare più esperienza al lettore, soprattutto per i più piccoli, è più difficile. Una grande verità che pochi dicono, che fare bene il digitale, quindi l'elettronica, sì, fare lo smartphone, eccetera, costa un sacco di soldi. Corretto, e farla questo bene, cioè più semplice voi la vedete, più è costata. Certo. Perché vuol dire che ci sono dei processi tecnologici. Enorme verità, database. Davide, sei d'accordo? Sono d'accordo, visto che noi siamo il secondo player dopo Amazon, sì, assolutamente. Sì. Ecco, noi invece abbiamo vinto il premio per miglior mobile editoriale con miglior interfaccia, eccetera. Ci abbiamo messo 9 mesi in un gruppo di 10 persone, quindi è complesso. Poi lo vedi, dici: ci metto un minuto. No, ci metti molto tempo, certo. È complesso e dietro ci sono dei processi logistica, customer care, approvvigionamento incredibili che hanno bisogno di un sacco di esperienza. Amazon ce l'ha, noi speriamo ce la stiamo facendo insieme a bravissimi, esatto, con gli altri, cercando di diventare migliori. Evidentemente, come diceva prima Davide, le piccole realtà o si associano o fanno qualcosa, oppure evidentemente sono un po' in difficoltà e le loro armi, secondo me, sono più il local, cioè cercare di essere molto local. Alcune persone sono intervenute nella discussione su LinkedIn, hanno commentato dicendo che le librerie sono dei luoghi talmente belli che il governo dovrebbe intervenire per finanziarle, per aiutarle a stare in piedi, per farle diventare un luogo di ritrovo. personalmente faccio già fatica a pensare alla libreria come un luogo dove la gente va a prendere l'aperitivo, no? Ci sono queste librerie che sono diventate luoghi un po'... Mi sento un po' attaccato, però. Però, Davide, però, io quando leggo un libro, il libro è un oggetto intimista. Allora, guarda, posso essere in disaccordo, nel senso che è un'esperienza, nel senso che ci sono tantissime foto che tu puoi trovare sui canali Instagram delle persone dove leggono un libro con una tazza di tè o leggendo un bicchiere di vino. È un'esperienza. Assolutamente. Quindi, infatti ho parlato di aperitivo. Non ho parlato, sono d'accordo con te, i precursori sono in America, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, c'erano già le catene che avevano la loro area caffè dove tu avevi la tua poltrona con la tua mug di caffè o di tè, ti leggevi il tuo libro. Fine, è quello che faresti a casa se avessi il tempo per poterlo fare, no? Cosa diversa è andare con gli amici a bersi il bicchiere di vino, fare toast, incominciare a parlare, schiamazzi, perché l'aperitivo è un momento di gioia per stare tutti insieme, non è un momento intimista, no? Ma dipende sempre come lo fai, scusa se rispondo. Sì, vai. So che ti punto sul vivo, visto che comunque avete investito in questo modello di business. Dipende come lo fai. Noi per esempio abbiamo fatto gli aperitivi in lingua, c'è sempre qualcosa di culturale all'interno, quindi è vero che magari puoi trovare, ma c'è una programmazione di eventi legata molto agli eventi culturali. Al contenuto. Quindi c'è sia l'incontro con l'autore, che piuttosto anche, ti ho detto, l'aperitivo in lingua, che fa parte della parte culturale per incrementare l'apprendimento individuale. Matteo? Allora, per partire dalla tua suggestione dell'aiuto, diciamo, pubblico verso le librerie, sono assolutamente d'accordo, nel senso che la cultura, quindi non il libro che io devo comprare, ma la cultura, quindi Fori Romani, il museo con dei bellissimi quadri. La biblioteca. La biblioteca con dentro tutto quello che puoi trovare, cioè dove puoi trovare un signore che si chiama Aristotele, che ci ha insegnato una cosina che si chiama democrazia. Quella, come dire, tutti dovrebbero avere Aristotele in mano e tutti dovrebbero leggerlo, quindi è giusto che possa essere pubblico. Sicuramente se le cose vanno avanti così, un aiuto pubblico per rendere le librerie un luogo di incontro, di discussione culturale, potrebbe essere interessantissimo, e perché no con anche un bel bicchiere di vino, altro, diciamo, caposaldo dell'Italia, no? Cari quindi, ascoltatori, detto ovviamente da chi oggi è in mano delle librerie, non potrebbe essere altrimenti, no? Ho dei dubbi però che questo possa veramente salvare un mercato dove io invece entro in una libreria e mi dicono posso prenotare il libro, glielo mando fra 5, glielo trova qui fra 5 giorni, no? Questa è un'esperienza che non può stare in piedi contro anche un IBS o una Oepli o un Amazon che 24-48 ore te lo manda a casa, no? Assolutamente, ma io l'ho detto prima, quindi l'innovazione tecnologica secondo me sta alla base, cioè tutti dovranno comunque cambiare atteggiamento e innovarsi dal punto, secondo me è la base, perché quelle sono le aspettative che hanno il consumatore, quindi le aspettative vanno comunque mantenute, quindi secondo me resisterà chi riuscirà a tenere il passo su queste cose. Io sui costi devo dire la verità che è cambiato molto il mondo della tecnologia. Immagini sono diminuiti il mondo dei libri? Assolutamente sì. Perché l'entrata di un grande player che per esempio dà le spese gratuite sempre, margini complessivi sì, cioè il massimo dello sconto sempre, magari su dei test invece, come dire, di piccolo volume, ma che devono essere acquistati per corsi eccetera, dove il margine è molto più basso, invece praticamente vengono venduti a costo. Ovviamente lì si fa fatica, però per rimanere sul mercato, esattamente come nella grande distribuzione, l'acqua minerale di fatto non fa margini perché è troppo grande, pesa troppo e costa pochissimo, ma devi averla perché sennò il consumatore non viene. Quindi, come diceva prima Davide, è parte del gioco. È anche vero però, Davide, ti lascio subito la parola, che ci aspettiamo comunque che il consumatore piano piano venga educato anche a riconoscere costi che oggi vengano dati per, come dire, gratuiti. Se Amazon Prime in Italia costa 39 euro, negli Stati Uniti costa $179, quindi già un costo un po' diverso. Secondo me il consumatore già è pronto a pagare dei servizi che prima non pagava. Già la stessa cosa, i costi di spedizione di Amazon sono leggermente... Io non so quanti di noi, anche degli ascoltatori che ci ascoltano... Anche noi abbiamo un Prime, chi compra la carta multipli ha un Prime €9, a 10 euro ha il Prime, quindi spedizione gratuita sempre. Quindi in realtà i servizi come hai visto anche noi li abbiamo dovuti mantenere. Io sui costi devo dire la verità che non sono d'accordissimo, nel senso che secondo me Oggi si può fare del digitale anche non spendendo una follia, quindi anche le piccole realtà secondo me possono iniziare a provarci. In modo diverso, sicuramente in modo diverso, ma secondo da me soli o in compagnia? Perché poi le librerie mica lavorano insieme, no? E quindi reti di librerie che magari sviluppano un'app insieme, dove ognuno mette un chip e dove, come dire, e oggi già il sistema della singola libreria ha il catalogo di tutto quello che hanno, no? Forse sì, forse accadrà anche questo, nel senso che l'evoluzione, basta pensare ai tassisti, quindi all'evoluzione che hanno dovuto fare altre realtà, quindi... Ma ci sono arrivate con delle grosse martellate, certo, cioè martellate che sono arrivate da fuori, da chi, come dire, ha smontato il mercato per ricostruirlo, e poi da chi ha detto ok, fermi tutti, adesso fermi, mettiamo tutti, ci pensiamo una noi piattaforma sulla quale possano lavorare in più. Guarda Pepe, hai detto assolutamente una cosa giusta, nel senso che in questo caso nel mondo dei taxi è entrato un Uber enorme, però mi sembra ci siano state un po' meno polemiche rispetto appunto alla parte di Amazon. Eppure è quello, idem i telefonini. Adesso noi non siamo finlandesi, ma pensate a un finlandese nel 2005 che aveva Nokia, dove credo più o meno tutti lavorassero a Nokia, certo. E oggi praticamente non esiste più. Esatto, quindi diciamo questo è la martellata, ti serve per capire, quindi devi andare avanti. Con questo sta cambiando il mercato, Davide ha in parte ragione, i costi diciamo della tecnologia di per sé stessa magari sono un po' più bassi, ma svilupparla bene, che spesso costa, e hai ragione tu, io mi ricordo avevo anche tentato di farlo insieme all'Associazione Librai Italiani, di dare la piattaforma per avere tutti sulla stessa piattaforma e dare un'offerta molto interessante, magari un po' anche unica, a dipendenza dei luoghi, per avere anche una ricchezza che sono tutte le librerie italiane. Però come al solito noi italiani a far sistema non siamo esattamente, no, librari. Non tantissimo. Un problema culturale. Prima esatto. Di chiudere facendovi l'ultima domanda, volevo solamente chiosare un argomento che spesso emerge quando si parla di Amazon, che paga le tasse all'estero, che quindi ne paga di meno, vantaggio competitivo e via dicendo, bla bla bla. Ecco, questo è un argomento che tendenzialmente noi in Italia non dovremmo affrontare, vista la quantità di nero che gira nella nostra economia, e che quindi se noi dovessimo pagare tutte le tasse che abbiamo non saremmo probabilmente più competitivi, ma non sta questa trasmissione a affrontare questo argomento, quindi mettiamolo da parte. Però è una riflessione che bisogna fare, non bisogna dimenticare tutti i pezzi del puzzle. E vi volevo fare, ecco, l'ultima domanda per chiudere. Quindi, le librerie che oggi stanno chiudendo, quando, secondo voi, hanno perso la partita? Quando non hanno giocato la loro partita? Oggi? Ieri? 10 anni fa? 20 anni fa? Quando non sono salite a bordo e non hanno accettato la sfida, Davide? Forse ieri, perché dovevano già essere pronte o prepararsi per il cambiamento, quindi è la capacità di cambiamento e di adattamento all'innovazione che se manca poi può venire meno. Era Davide Surace che ringraziamo, Chief Digital Officer di Stereo, Gruppo Feltrinelli, grazie Davide. Grazie a te. Matteo? Ma io ho anche quasi una data, cioè ovvero sia 15 anni fa circa, quando evidentemente le cose stavano iniziando a cambiare, c'era Apple.it, c'era EBS, c'erano altri. Amazon non c'era ancora, ma si era capito dove si andava, però erano ancora piccoli numeri rispetto magari al mercato totale. Lì se cambiavi ce la facevi, se invece, come io ho visto tante volte, ah no, questa cosa non funziona, non servirà a niente, ovviamente non ti prepari. A quel punto poi vai addirittura, come è stato, in trincea e inizia a dire che è colpa di tutti. E invece forse uno dovrebbe fare un pochino di autocoscienza. Ah sì, il mercato cambia e tu devi cambiare. E questa era la voce di Matteo Ulrico Oepli, vicepresidente e amministratore delegato di Oepli Edizioni e della libreria Oepli. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio tutti i nostri ascoltatori. Come sempre, questo e tutti gli altri argomenti sono approfonditi sul sito della Business School del Sole 24 Ore. Un saluto da Pepe Modena.